Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que... Pasto biscum, donna. Fate fico di me. Pusimos toda la música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole musica dell'America Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para arruinar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol, tu pincho de vi, dale 17, 87 y 9 de Radio Onda Rossa. El pueblo se tiene que unir para luchar. Para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti giovedì dalle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E anche alle 17.07 minuti per questo giovedì inizia l'Esquina del Sol. Sempre ben accompagnata, devo dire, ultimamente, delle presenze in studio pazzesche. E finalmente mi passo il testimone col nuovo orario di Attica Blues. E allora, insomma, anche un pomeriggio abbastanza tematico tra il mio solo, il loro Attica Blues, fatto col cuore, perché, insomma, conoscendo le redattrici di questa trasmissione, assenti compresi, ormai stiamo diventando grandi, io e te ci siamo conosciuti che, insomma, avevamo finito De Ciucciasse e Lido e mo ragazzini, i capelli bianchi, capito? Vabbè, perché come vedete comunque questo proprio a noi non ci spaventa. So altre le cose, so altri monti quelli che ci spaventano, mettiamola così. Allora, dicevo, insomma, diciamo queste prime trasmissioni del nuovo anno sono quelle che, insomma, io vedo che in televisione, perché ahimè da disoccupata mi sto facendo del male con la televisione. Sì, una cosa buona mi faceva il lavoro prima, non mi metteva davanti a quella scatola infame, invece adesso ogni tanto ci casco. E sono tipo due settimane, oggi che è? Il 12, 13, 12, quindi sono sicuramente almeno 12 giorni che ci danno delle diete pazzesche. Io non sono mai stata a dieta nella mia vita, penso che, insomma, uno può svaccare e poi riprendersi, c'è sempre tempo. E comunque, insomma, per non farsi prendere da queste paturnie da cintura, te alza le mani perché non è proprio tema per te. Io invece mi voglio godere queste tre bellissime ciccione da Cuba, fiere della loro negritudine e ciccioneria. Loro sono le Crudas Cubensi con questa stupenda gorda. Una gota con sentimiento. Soy talento, chura terrenal,

verdad del señor Matanza. No, non stiamo ricominciando dall'ultima trasmissione, ma sono le mie defaillance costanti che ancora non ve ne siete abituati. Allora, 17-19 minuti, intanto sbra, sono partiti i primi 20 minuti, io neanche me ne sono accorta. Sono morto in la esquina, morto in el avión, muertos que hablan, caras de terror, ira, Kosovo, muerto de cualquier modo. Nichos escombros, solo eso, eso es todo. Culpables, condenas, esclavos, cadenas de la ley. De la ley. De la ley. Muerto, ya no hay pistas. Muerto, ya no hay risa, risa, risa. Alma en pena, muerto cabrón, perdida ajena. Misil inteligente, guerra biológica. Arma cargada, fuera de lógica. Culpables, condenas, esclavos, cadenas de la ley. De la ley. De la ley. Pakistanis, E sempre qua finiamo, perché oggi sono proprio, ecco, insomma, inutile che ve lo dico. E andiamo avanti, io vado al buio, una trasmissione al buio, del resto, in una vita piena di incertezze. Solo una ley hace lo que quiero mientras a nadie moleste, no. Insomma, questo è l'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, una mitica radio senza padroni, senza pubblicità, l'ascolto delle Schina del Soul. Insomma, chi c'ha l'età mia qua in radio non può non ricordarsi, allo scadere di un'ora, una trasmissione che, insomma, anche se l'ascoltavi per sbaglio, qualcosa ti rimaneva. E poi, insomma, per chi stava qui in radio, sicuramente il patato è stato nel suo risultare simpatico, antipatico, perché sicuramente era bello tosto, Sicuramente comunque qualcosa ha lasciato anche a chi non lo sopportava, per quel suo essere determinato, per il suo credere fino in fondo nelle cose. E allora proprio per ricordare, anche per ricordare Roberto, che come avete sentito il 28 abbiamo scatenato un altro di quei gruppi che la gente pensava ormai in pensione. Ma insomma, a volte i musici di qualche anno fa, dopo aver fatto i musici, diventano impiegati e si ricorda quanto si stava meglio da musici. Stiamo parlando degli Scream, che insieme al Forte Prenestino vi porteremo il 28. Con Roberto nel cuore, chiaramente, proprio perché, insomma, gli Scream gli appartengono. E se probabilmente qualcuno rimane perplesso, nel senso che casomai il patato non era proprio uno dei migliori amanti del Forte, credo che, insomma, come si dice in spagnolo, al día de hoy esta son bobadas, mi sembra, insomma. Almeno io personalmente, che sotto le sue ali sono cresciuta, penso che adesso, insomma, davanti a queste questioni si stia a fare un po' una risata. Mi sembra che le questioni che abbiamo intorno, insomma, riescano a spingerci ben al di là di questo. Ma, insomma, questo è un mio pensiero del tutto personale. Allora, noi cerchiamo di continuare in un modo o nell'altro questa trasmissione. Io avevo preparato proprio una cumbiazza oggi totale. Ecco, invece questo è proprio uno di quei brani che vi ho fatto sentire per sbaglio. Quindi facciamo così, viriamo di nuovo verso il Messico. in un bellissimo concerto live a Parigi di Lila Downs e la Misteriosa. Waiting for Evelina. Si completa anche il salotto qui della Schiena del Sol di oggi, sempre più fornito. Mi toccherà comprare un divanetto, però insomma è molto figo riuscire a fare le trasmissioni in compagnia. Sì, è vero, un po' mi distrago, ma tanto un sacco di macello lo facevo comunque, e quindi qual è il problema, no? Almeno non sto da sola. No, scherzo, insomma, già arrivano i vostri trillini, già si sono scatenate così gli asterischini tra un canale e l'altro, insomma, che comunque non va bene che se io non vengo in chat voi non vi ricordate che è giovedì, eh? Siete voi che dovete venerare me, no, io che vengo a chiamare voi. Gli 87.9 di Onda Rossa, una radio senza padroni, senza pubblicità, e se li porta anche una favola. Insomma, questi ascoltatori che hanno anche un certo gusto, eh? mariposa de mil flores. Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadena ni lágrima me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Aquí junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor. Y en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame. Mi piacciono di giovedì di Onda Rossa, quelli con tutto il palinsesto pieno, senza buchi. Allora, di nuovo Attica Blues, la novità dell'anno, insomma, nel giovedì, ormai insomma dovete fare l'abitudine, sono sempre loro. E poi finalmente torna anche alla grande Profondo Rosa, che insomma è una notevole trasmissione, nonché appunto così un'importante trasmissione, non solo per i temi, ma anche perché ormai ci siamo affezionati a questo appuntamento. Amo. The Diablo Swing Orchestra. The Diablo Swing Orchestra, non so perché mi è venuto, l'ho messo lì, insomma, energico questo pezzo, senza dubbio, ma torniamo un po' alla parte soul che stiamo appena aprendo. Beh, sicuramente più che soul, anche se insomma la radice è quella. Languida la voce di Bootsy Collins, uno di quei giganti che salivano sul palco pieni di paillette, con gli zatteroni, gli occhiali da sole, con le stelle, i brillantini. You're number one, so give to that. Dopo tanta energia, un po' di languidume, come mi sottolineano immancabili pettegoli. I can't have you to myself, then life's no fun. I'd rather be with you, who, yeah. Yeah, I'd rather be with you. I'd rather be with you, who, yeah. Yeah, I'd rather be with you. Oh, baby. Allora, come vi dicevo, un salotto pieno, quello degli studi di Onda Rossa di oggi, non solo di trasmissioni ma anche di compagnia. Così, imparare ultimamente mi capita spesso con le persone di parlare delle relazioni che vanno mantenute, vanno curate, vanno coltivate. Quelle personali, quelle politiche. Sembra facile, ma non è che tutto viene da sé. Allora, alle 17.45 abbiamo fatto un po' di tuffo nella Blaxploitation e allora continuiamo così. Cambiando molto stile. Listen to me. E allora va bene, facciamo che ve la metto da capo, anche se insomma, bisogna essere un po' rapidi coi trillini, sennò qui 20 minuti lo stesso brano, ma insomma il trillino, questo modo di comunicare che solo Onda Rossa ha saputo inventarsi, è iniziato tantissimi anni fa con le trasmissioni reggae, per chi non lo conoscesse, ecco un modo per voi di dimostrarci il gradimento delle selezioni in una radio fatta indubbiamente da noi, ma anche molto da voi. Oh,

una carrellata di vocine ci siamo fatte, eh? Da Marlena Show, The Woman of the Ghetto, you know, e poi Harold Melvin, The Blue Notes, con Wake Up Everybody, e poi grande quella che stiamo ascoltando, Sharon Jones and the Dap Kings. Thing is a drag. Minuti, allora ancora l'ascolto degli 87.9 di Onda Rossa, La Schiena del Soul. Woke up this morning with the sun down shining in, found my mind in a brown paper bag. Tripped on a cloud, fell 8 miles high, told my mind on a jagged sky. Hey, I dropped in to see what condition my condition was in. Pushed my soul in a deep drop hole and then I followed. Allora io vi ricordo che appunto dopo La Schiena del Soul, che ormai riprende il suo orario normale, il mixer e i controlli passeranno nelle capaci mani di Profondo Rosa. Sebbene rimanga ancora un dubbio per quello che sarà il GR serale, vediamo che si può fare. Thank you. cambiamo sicuramente tipo di voce e anche, diciamo così, di data, di anno. Andiamo a concludere così in maniera soft, piano piano, le scaline del soul. Dopo la voce di Dinah Washington, quella di Nina Simone, quando sono le 18:05 minuti, sarà l'ultimo brano per questo appuntamento insieme. Break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shaded. Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that to get it. Been working, working, but the strength got so terribly far to go. Breaking rocks out here on the chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go. Sabato 28 gennaio. Radio Onda Rossa e CSOA Forte Prenestino presentano Scream in concerto. A 30 anni dalla loro formazione tornano gli Scream, una delle band di riferimento della scena punk hardcore americana. Corpatata nel cuore. Sabato 28 gennaio, CSOA Forte Prenestino, 5 euro a sottoscrizione per Radio Onda Rossa. Da 34 anni senza padroni e senza pubblicità. Italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que. Pacto viscum donna. ¡Date pico de! Pusimos toda música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole e musica dell'America Latina. E allora ebbene sì, anche per questo giovedì ci lasciamo. El 2 de febrero la... Termina qui questo appuntamento con l'Esquina del Soul. C'è dove sta. Anche oggi il caos ai controlli praticamente. Ana para aunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos. Io come tutti i giovedì vi do appuntamento al prossimo. Sempre dalle 17 alle 18 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. 87.9 di Radio Onda Rossa. E come sempre con un saluto particolare a tutte e tutti coloro che non possono godere della propria libertà. Pueblo se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti i giovedì dalle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.